Sabrina Havisham. Ad alta voce, Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens, 11ª puntata. L'indomani mattina di buon'ora mi alzai ed uscii. Era ancora troppo presto per andare dalla signorina Havisham e bighellonai per la campagna dalle parti del castello. E intanto pensavo alla mia benefattrice e mi dipingevo un quadro roseo dei suoi progetti su di me. Aveva adottato Estella. Aveva in certo modo adottato anche me e non poteva non avere l'intenzione di unirci. Ella riservava a me il compito di restaurare quella casa desolata, far entrare la luce del sole nelle camere buie, rimettere in funzione gli orologi e far brillare la fiamma nei freddi focolari, togliere le ragnatele, distruggere le bestie immonde, insomma, compiere tutte le brillanti imprese del giovane cavaliere dei romanzi cavallereschi e sposare la principessa. Mi ero fermato a guardare la casa nel passarvi dinanzi e quei muri di mattoni rossi scrostati, le finestre ostruite, l'edera verde e forte che soffocava perfino i camini con le sue ramificazioni e i suoi viticci come antiche braccia nerborute formavano un insieme misterioso e affascinante di cui mi sentivo l'eroe. Naturalmente Estella ne era l'ispiratrice, il cuore, ma sebbene ella si fosse completamente impadronita di me, sebbene ogni mio sogno, ogni mia speranza fosse riposta in lei, sebbene il suo influsso sulla mia vita, sul mio carattere, fosse stato così decisivo fin dall'adolescenza, neppure in quel romantico mattino l'ammantai di attributi diversi da quelli che possedeva. Lo dichiaro qui, a questo punto, di proposito, perché ciò rappresenta il filo conduttore con cui mi si dovrà seguire nelle mie arruffate vicende. Secondo la mia esperienza, l'idea convenzionale che ci si fa di un innamorato non sempre corrisponde al vero. La nuda verità è che quando io amai Estella con l'amore di un uomo, l'amai semplicemente perché la trovavo irresistibile. Sia detto una volta per tutte, con grande mia sofferenza sentivo spesso, se non sempre, che l'amavo in contrasto con ogni ragione e promessa, senza pace, senza speranza, senza felicità, nonostante ogni delusione che me ne potesse venire. Sia detto una volta per tutte, l'amavo a occhi aperti, né ciò valeva a frenarmi più che se io avessi sinceramente visto in lei un esempio di umana perfezione. Regolai la passeggiata in modo da arrivare al cancello all'ora di un tempo. Quando ebbi suonato il campanello con mano malferma, voltai la schiena al cancello, mentre cercavo di riprendere fiato e calmare un poco il battito del mio cuore. Sentii aprirsi la porticina laterale e dei passi attraverso il cortile, ma feci finta di non sentire, persino quando il cancello si aprì cigolando sui cardini arrugginiti. Infine, sentendomi toccare sulla spalla, trasalii e mi voltai, e trasalii ancora di più nel trovarmi di fronte a un uomo vestito di grigio scuro, proprio la persona che meno mi sarei aspettato di vedere in funzione di portiere alla porta della signorina Havisham. Orlick! Ehi, padroncino! Ci sono stati altri mutamenti oltre ai tuoi! Ma entra, entra! Tenere il cancello aperto è contrario agli ordini che ho ricevuto. Entrai. Egli aprì il cancello, lo richiuse, ritorse la chiave. Sì, disse voltandosi verso di me dopo avermi risolutamente preceduto di qualche passo in direzione della casa. Eccomi qui. Come sei venuto a finire qui? Sono venuto qui, ribatté, con le mie gambe. E il mio baule è stato portato su una carriola. Gli domandai da quanto tempo aveva lasciato la fucina di Gargery. «Qui i giorni sono tanto simili gli uni agli altri», rispose, «che non lo so senza fare il conto, però sono venuto qui dopo la tua partenza». «Questo avrei potuto dirtelo anch'io, Orlick». «Oh», disse seccamente, «ma tu hai l'obbligo di essere istruito». «Beh», dissi io, non desiderando proseguire il colloquio, «posso salire dalla signorina Havisham? Che io sia dannato se lo so!» E gli ribatté prima stirandosi e poi scrollandosi. «I miei ordini finiscono qui, padroncino. Do un colpo a questa campana con questo martello e tu vai avanti nel corridoio finché incontrerai qualcuno. Sono atteso, credo. Che io sia doppiamente dannato, se te lo posso dire. A queste parole mi avviai per il lungo corridoio che la prima volta avevo percorso con i miei scarponi, ed egli fece suonare la campana. Alla fine del corridoio, mentre ancora ne risuonavano le vibrazioni, incontrai Sarah Pocket, che mi sembrò diventata verde e gialla in modo permanente, per colpa mia. «Oh!» disse. «Siete voi, signor Pip?» «Sì, signorina Pocket. Sono lieto di dirvi che il signor Pocket e la sua famiglia stanno tutti bene.» «Sono diventati un po' più sensati?» disse Sarah scrollando tristemente la testa. «Più che star bene di salute, avrebbero bisogno di star bene di cervello.» «Oh, Matthew, Matthew! Conoscete la strada, vero?» «Abbastanza, poiché ero salito su per quella scala al buio molte volte. La salii ora con scarpe più leggere di quelle di un tempo, e come un tempo bussai alla porta della camera della signorina Havisham.» «È il modo di bussare di Pip!» La sentii dire subito. «Entra, Pip!» Era nella sua poltrona accanto al vecchio tavolino, nella sua vecchia veste, le due mani incrociate sul bastone, il mento posato su di esse e gli occhi fissi sul fuoco. Seduta accanto a lei, con in mano la scarpetta bianca che non era stata mai portata e il capo chino a guardarla, vidi una dama elegantissima che non conoscevo. «Entra, Pip!» mormorò ancora la signorina Havisham, senza alzare gli occhi o voltarsi dalla mia parte. «Entra, Pip! Come stai, Pip? Ah! Mi baci la mano come se io fossi una regina, eh? Ebbene?» Di botto mi guardò, muovendo soltanto gli occhi, ripetendo in tono tristemente scherzoso: «Ebbene?» «Mi hanno detto, signorina», disse io piuttosto imbarazzato, «che avevate la bontà di volermi vedere, e sono venuto immediatamente.» «Ebbene?» La dama, che non conoscevo, alzò gli occhi e mi guardò con aria altezzosa. E vidi allora che gli occhi erano quelli di Estella. Ma era tanto cambiata, tanto più bella, tanto più femminile. Aveva fatto un così meraviglioso progresso in tutto ciò che può ispirare l'ammirazione, che sembrava che io non ne avessi fatto alcuno. Nel guardarla mi parve di ridiventare il ragazzetto disperatamente volgare e ordinario di un tempo. Oh, quale sensazione di distanza e disparità mi sopraffece! Come ella mi apparve inaccessibile! Mi diede la mano. Balbettai qualche parola sul piacere che provavo nel rivederla e che avevo atteso con impazienza quel momento per tanto, tanto tempo. «La trovi molto cambiata, Pip?» domandò la signorina Havisham con il suo sguardo avido, battendo il bastone sopra una seggiola posta tra di loro per indicarmi che dovevo sedermi lì. «Quando sono entrato, signorina Havisham, mi è sembrato che non vi fosse nulla di Estella nel suo volto o nella sua figura, ma ora tutto quanto si armonizza così stranamente con l'antica.» «Come? Non vorrei dire con l'antica Estella!» mi interruppe la signorina Havisham. «Quella era orgogliosa, arrogante, e tu volevi stare lontano, non ricordi?» Dissi confusamente che ciò era accaduto tanto tempo fa, quando non capivo bene le cose e così via. Estella sorrise con calma perfetta e disse che io dovevo avere pienamente ragione e che lei allora doveva essere davvero molto antipatica. «E lui è cambiato?» le chiese la signorina Havisham. «Moltissimo», rispose Estella guardandomi. «È meno volgare e ordinario», chiese ancora la signorina, giocherellando con la capigliatura di Estella. Questa rise, guardò la scarpa che teneva in mano, rise di nuovo, mi guardò e posò la scarpa. Mi trattava ancora come un ragazzo, ma cercava di adescarmi. Rimanemmo seduti in quella strana stanza tra le vecchie strane cose che avevano tanto influito su di me, e venni così a sapere che ella era appena tornata dalla Francia e stava per recarsi a Londra. Fiera e caparbia come un tempo su queste sue caratteristiche doti, sembrava talmente fondare la propria bellezza che era impossibile, quasi contro natura, almeno per me, dissociarle dalla stessa sua bellezza. Era veramente impossibile dissociare la sua esistenza da quella dolorosa brama di ricchezza e distinzione sociale che aveva sconvolto la mia adolescenza, da tutte quelle irragionevoli aspirazioni per cui mi ero sentito per la prima volta nella mia vita vergognoso della mia casa e di Joe, da tutte quelle visioni che avevano fatto sorgere il suo volto nel fuoco, lo avevano forgiato nel ferro incandescente sull'incudine, lo avevano evocato nell'oscurità della notte, intento a guardare dalla finestrella della fucina, per poi subito svanire. In una parola, mi era impossibile di separarla sia nel passato sia nel presente dalla più intima parte della mia stessa vita. Fu deciso che io sarei rimasto lì per il resto della giornata. La sera sarei tornato alla locanda e l'indomani sarei ripartito per Londra. Dopo aver conversato un poco, la signorina Havisham ci mandò a passeggiare nel giardino abbandonato e mi chiese, quando poi fossimo rientrati, di spingerla un poco nella poltrona attorno alla stanza, come una volta. Così Estella ed io uscimmo in giardino, passando dal cancello attraverso il quale io mi ero avviato alla lotta con il giovane pallido, che oggi era Herbert. Io, tremando in fondo al cuore, adorando persino l'orlo del suo vestito. Lei, calmissima e decisamente indifferente all'orlo del mio. Mentre ci avvicinavamo al luogo della lotta, Estella si fermò e disse: «Devo essere stata una creatura ben strana per essermi nascosta quel giorno per vedervi lottare. Ma lo feci e mi divertii molto». «Me ne ricompensasti molto bene». «Sì», rispose in tono indifferente e dimentico. «Rammento che provavo una grande antipatia per il tuo avversario. Non potevo sopportare che l'avessero condotto qui per infastidirmi con la sua compagnia». «Lui ed io siamo ora grandi amici», dissi. «Davvero? Mi sembra di ricordare che tu studi con suo padre». «Sì», lo ammisi con riluttanza, perché la frase aveva un che di fanciullesco ed ella già mi trattava fin troppo come un ragazzo. «Dopo il tuo cambiamento di condizioni e prospettive, hai cambiato compagnia?» disse Estella. «Naturalmente». «E necessariamente», ella aggiunse in tono altezzoso. «Perché la compagnia che una volta era adatta per te ora non lo sarebbe di certo». In coscienza dubito assai di aver avuto ancora intenzione di andare a trovare Joe, ma se anche l'avevo, questa osservazione la dissipò definitivamente. «Allora non avevi nessuna idea della fortuna che ti aspettava», disse Estella con un vago gesto delle mani per indicare il tempo della lotta. «No, davvero». L'aria compita e di superiorità con cui ella camminava accanto a me e l'aria infantile sottomessa con cui io camminavo accanto a lei formavano un contrasto di cui ero dolorosamente consapevole. Mi avrebbe fatto soffrire anche più di quanto soffrivo se non avessi creduto di esserne io stesso la causa, per essere stato riservato a lei, destinato a lei. In giardino, ingombro da una vegetazione lussureggiante, non si poteva camminare facilmente e dopo averne fatto il giro una o due volte, uscimmo di nuovo nel cortile della birreria. Le mostrai il punto preciso dove l'avevo vista camminare sulle botti, quel primo giorno lontano. Ed ella disse: «Davvero?», gettando uno sguardo freddo e noncurante in quella direzione. Le rammentai che ella era uscita dalla casa e mi aveva dato da mangiare e da bere. Ed ella disse: «Non ricordo». «Non ricordi che mi hai fatto piangere?», dissi io. «No», e scrollò il capo guardandosi attorno. Veramente quel suo non ricordare, quella sua completa indifferenza, mi fecero piangere di nuovo, internamente. Ed è sempre il pianto più doloroso. «Devi sapere», disse Estella nel tono condiscendente che si addice a una dorgio minuveda, «che io non ho cuore, se questo può spiegare la mia poca memoria». Riuscii a balbettare qualche parola incoerente e mi prendevo la libertà di dubitarne, che ne sapevo abbastanza per non crederci, che non ci poteva essere tanta bellezza senza cuore. Senza dubbio ho un cuore che può essere pugnalato o trafitto da un colpo di pistola. Ma si ria Stella. E naturalmente se esso cessa di battere io cesserei di esistere. Ma tu sai cosa voglio dire? Non ho nessuna tenerezza lì, nessuna simpatia, nessun sentimento. Sono tutte sciocchezze per me. Cosa fu mai che mi colpì in lei mentre ella mi guardava attentamente in silenzio? Qualcosa che avevo visto nella signorina Havisham? No. In certi suoi sguardi e gesti vi era quella tenue rassomiglianza con la signorina che spesso può accadere di riscontrare fra i bambini e le persone adulte con cui essi abbiano vissuto a lungo e isolati, e che una volta oltrepassata l'infanzia dà luogo ad una notevole somiglianza di espressione in volti per altro verso completamente differenti. Eppure non riuscivo a ricollegare quel non so che con la signorina Havisham. La osservai di nuovo. E sebbene ella avesse sempre gli occhi fissi su di me, quel non so che era svanito. Cosa era mai? Dico sul serio, affermò Estella, non già aggrottando le sopracciglia che la sua fronte era liscia, ma con una espressione rannuvolata. Se in avvenire dovremmo trovarci spesso insieme, sarebbe meglio che tu te ne convincessi, no? Fermandomi con un gesto improvviso prima ancora che io aprissi bocca. Non ho accordato la mia tenerezza a nessuno. Non ho mai provato nulla del genere. Alla fine rientrammo in casa. E lì con somma sorpresa venne a sapere che il mio tutore era venuto a trovare la signorina Havisham per questioni di affari e sarebbe tornato per pranzo. I vecchi e lugubri bracci dei candelieri nella stanza dove era imbandita la tavola dai cibi ammuffiti erano stati accesi mentre noi eravamo fuori e la signorina mi aspettava seduta nella sua poltrona. Fu come spingere la poltrona stessa a ritroso negli anni quando iniziammo il lento girotondo attorno ai resti del banchetto nuziale. Ma nella camera funebre, dove quella figura adagiata nella poltrona sembrava uscita da un sepolcro e teneva gli occhi fissi su Estella, questa per contrasto appariva più radiosa e bella che mai, ed io ne subivo profondamente l'incantesimo. Il tempo fuggì così rapido che in un baleno si avvicinò l'ora del pasto ed Estella ci lasciò per andarsi a cambiare. Eravamo fermi vicino al lungo tavolo e la signorina Havisham, stendendo fuori dalla poltrona una delle sue braccia avvizzite, posò la mano chiusa sulla tovaglia ingiallita. Quando Estella si volse a guardare prima di uscire dalla stanza, la signorina le lanciò un bacio con le dita, con una intensità famelica e veramente terrificante. Poi uscita Estella, rimasta sola con me, e la si volse verso di me e sussurrò. Non è forse bella, graziosa, incantevole? La miri? Chi la vede non può farne a meno, signorina. Mi gettò un braccio intorno al collo e attirò la mia testa vicino alla sua, rimanendo seduta nella poltrona. Amala, amala, come ti tratta? Prima che potessi rispondere, seppur avrei potuto rispondere ad una domanda così difficile, ripeté: amala, amala, amala. Se ti tratta gentilmente, amala. Se ti ferisce, amala. Se ti spezza il cuore, quanto più il cuore è maturo e forte, tanto più gravemente si spezzerà. Amala, amala, amala. Non avevo mai visto una passione così intensa come quella che traspariva dalle sue parole. Potevo scorgere i muscoli del braccio sottile che mi circondava il collo gonfiarsi per l'ardore che l'animava. Ascoltami, Pip. L'ho adottata perché fosse amata. L'ho allevata e fatta istruire perché fosse amata. Ne ho fatto quello che è ora perché potesse essere. Amala! Quando pronunciò queste parole, cui seguì un urlo selvaggio, dovetti trattenerla per la vita, già che si era rizzata sulla poltrona nel suo sudario nuziale e andava annaspando alla cieca come se avesse voluto scagliarsi contro la parete e cadere a terra morta. Tutto ciò avvenne in pochi secondi. Quando la costrinse a riadagiarsi nella poltrona, mi giunse un profumo ben noto e, voltandomi, vidi nella stanza il mio tutore. La signorina Havisham lo aveva visto anche lei nel medesimo istante e, come ogni altra persona, aveva paura di lui. Si sforzò di controllarsi e balbettò che egli era puntuale come sempre. «Puntuale come sempre», ripeté lui avvicinandosi a noi. «Come stai, Pip? Le devo far fare un giretto, signorina? Un giro attorno alla stanza? E così sei qui, Pip?» Gli dissi da quanto ero arrivato e che la signorina Havisham aveva desiderato che io venissi a vedere Stella, al che egli replicò: «Oh, una signorina molto bella!» Poi spinse innanzi a sé la signorina Havisham nella sua poltrona con una delle sue grosse mani, mettendosi l'altra nella tasca dei calzoni, come se la tasca fosse piena di segreti. «Ebbene, Pip, quante volte avevi visto la signorina Estella prima d'oggi?» mi chiese quando si fermò. «Quante volte?» «Sì, quante volte? 10.000?» «Oh, non tante, di certo. 2 volte?» «Jaggers», intervenne la signorina Havisham con grande mio sollievo, «lasciate in pace il mio Pip e andate con lui a cena». Giungemmo così in sala da pranzo, dove Stella e Sara ci aspettavano. Il signor Jaggers si mise a capotavola con Stella di fronte a sé ed io mi trovai di rimpetto alla mia amica verde e gialla. La cena fu eccellente, servita da una domestica che non avevo mai vista in tutte le mie visite precedenti, ma che, per quanto ne so, poteva essere sempre vissuta in quella casa misteriosa. Dopo cena, una bottiglia di vecchio porto fu collocata dinanzi al mio tutore e le due signore ci lasciarono. Giocammo a carte sino alle 9. Poi si decise che quando Stella fosse venuta a Londra, io sarei stato avvertito del suo arrivo e le sarei andato incontro alla diligenza. Quindi presi congedo da lei e le strinsi la mano e la lasciai. Il mio tutore dormì alla locanda nella camera vicino alla mia. A lungo, nella notte, le parole della signorina Havisham, «Amala, amala, amala», mi riecheggiarono nelle orecchie. Le adattai a mio uso e ripetei al cuscino «L'amo, l'amo, l'amo» centinaia di volte. Poi una vampa di gratitudine mi infiammò che ella dovesse essere destinata a me, un tempo garzone di un fabbro. Allora mi domandai se, come temevo, finora ella non era affatto così entusiasta e grata per questa sua sorte, quando avrebbe incominciato a nutrire interesse per me? Quando avrei risvegliato il suo cuore, per ora muto e addormentato? Ahimè, mi parevano emozioni nobili e grandiose queste, ma non mi balenò mai il pensiero che vi era qualcosa di basso e meschino in quel tenermi lontano da Joe, perché sapevo che ella lo avrebbe disprezzato. Soltanto il giorno prima Joe mi aveva fatto salire le lacrime agli occhi, come si erano presto asciugate. Dio mi perdoni, asciugate ben presto. Ad alta voce. Piero Baldini ha letto Grandi speranze di Charles Dickens. 11ª puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it.